Allora parlo con la zanzara, Radio 24. Ciao Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Fosi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che sì, tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente no. Male, cazzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Dove sei, cagnolino? Ti vorrei qua vicino. Ti cerco tanto qua e là. Così grande la città, dove sei, cagnolino, ti vorrei qua vicino, ti cerco tanto. Caro David, è arrivata al Parlamento europeo la questione MP. C'è un deputato europeo, un nostro amico, una persona molto pacata, molto brava, che si chiama Sergio Silvestris, lo abbiamo avuto collegato ieri, gasparriano di ferro, il quale ha presentato, io lo voglio ricordare a quelli che non erano in collegamento ieri a tarda sera, perché questa trasmissione dura 2 ore e 30 circa. E volevo ricordare che questo signore, che si chiama Sergio Silvestris, ha presentato una interrogazione alla commissione. Ora la gente non sa, quelli che sono in macchina, quelli che sono sui camion, quelli che sono a casa, quelli che stanno ascoltando mentre corrono, eccetera eccetera eccetera, non sanno magari che cos'è un'interrogazione, che cos'è la commissione, non lo sanno, e giustamente non lo sanno perché se ne fottono di queste cose. Comunque questo signore che si chiama Silvestris chiede l'intervento dell'Europa, diciamo così, dell'Europa. Per fare cosa? Per scoprire che fine ha fatto il cane adottato da Monti durante la trasmissione della Bignardi. Sentiamolo questo campione, Silvestris, amici miei. La commissione deve verificare che il cane è tenuto nel rispetto della convenzione. E quindi, dice sempre la convenzione, chi se ne prende cura deve rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente, procurargli adeguate possibilità di esercizio. Ma scherza. E prendere i provvedimenti, onorevole, perché impedisca che fuga. Qua Monti l'ha fatto scappare invece sto cane. Beh, con questa la vicenda Empi è arrivata al suo zenith, al suo top. Se ne occuperà o no il signor Barroso? Cioè, il signor Barroso, secondo Silvestris, dovrebbe mandare degli ispettori a casa Monti o comunque in Italia a indagare, ma il cane di Monti è trattato bene oppure no? È morto o è ancora vivo? Chi lo possiede? Chi lo tiene in mano il cane di Monti? L'Europa, poi uno dice che è inutile l'Europa, cancellare tutto, chiudere il Parlamento europeo, chiudere spese inutili. Vabbè, ora voi mi dovete spiegare. Ma scusa, ma sì, dimmi, dimmi, la caro, dimmi. Dovrà seguire gli ispettori di Barroso o la risposta del signor Barroso? Seguiremo passo dopo passo gli ispettori di Barroso. E dai. Oh, oh, oh, voi mi direte che io sono partigiano, che io sono a favore di uno e contro l'altro. Accendete qua per cortesia. No, aspetta un attimo, qui. No, non accendi niente, fermo, fermo, no, no, stai fermo lì, stai fermo dove sei adesso fermo. E alza la voce, aspetta. Allora, voce, voi mi direte, voi me ne frego, voi direte io sono fazioso, eccetera. Ora, perché la Santanchè, vicepresidente della Camera, non andandava bene e invece va bene la signora Rosy Bindi, contro la quale non ho nulla, non ho nulla, presidente della commissione antimafia? Cioè, uno diceva, la Santanchè è una che divide, è troppo spigolosa e quella. Ma scusate, la signora Bindi. Al di là del fatto che, insomma, delle legislature fatte, delle persone che cercano sempre uno strapuntino, una posizione, ma questo va bene, fa parte della politica. La signora Bindi, vi vogliamo far ascoltare qualcosa su Berlusconi? Ne ha dette di tutti i colori. Per esempio, che ne so, frutto di Tangentopoli, diciamo questo, marzo dell'anno scorso, marzo di quest'anno. Le affermazioni che abbiamo sentito in questi giorni. La più grave è quella: non ci sarebbe stato Mani Pulite. Chi ha mangiato nel piatto di Mani Pulite, per favore non ci sputi adesso, perché Berlusconi è un frutto di Tangentopoli, è il frutto di quel periodo là. Personalità condivise, no? Cioè, bisogna scegliere persone che appartengono al mondo della condivisione, appartengono al mondo. signora Bindi è una partigiana giustamente della sua posizione anti-berlusconiana di ferro, presidente della commissione antimafia. Beh, ma chi se ne frega, la commissione antimafia andrebbe chiusa pure questa. Stasera vogliamo chiudere tutto, Parlamento europeo, commissione antimafia. So che siete d'accordo, voi che siete in macchina, che siete sui camion, che siete sui taxi. Va bene. Che c'è di altro oggi? Che è successo? Oh, De Gregorio Berlusconi rinviato a giudizio per la compravendita dei senatori, no? Certo. Tutto nasce da De Gregorio, il quale, fiero berlusconiano prima, adesso vuole che Berlusconi si ritiri dalla politica. E credo che anche questa vicenda acceleri il tramonto di un percorso politico che ormai è arrivato al redder actionem. Consiglio a Berlusconi di ritirarsi dalla scena politica, liberando l'Italia e liberando se stesso dal peso di tante infamie. De Gregorio è sempre quello che ha detto: mi sono deciso ad andare dai magistrati a parlare contro Berlusconi perché ho sognato mio padre, no? Mio padre che mi ha spinto a fare questo. Dai, su, e dai. Su, dai. Mi dica un po', tranviere, permetti un momentino, per caso ho visto il mio pannolino. Cruciani e Parenzo addirittura nel preserale, credo di Canale 5, Bonolis, sì, hanno fatto una domanda, una domanda su di noi. Ma perché non si sente mai un cazzo questo qua? Perché Bonolis, Bonolis, alza, Bonolis di Milano, che sono alla radio. Cosa fanno insieme Giuseppe Cruciani e David Parenzo? Un programma radiofonico, canottaggio. Programma telefonico. Programma telefonico. Radiofonico. Cosa ha detto, radiofonico? Radiofonico, io ho detto. Lei cosa ha detto? Ah, oh, sì, programma radiofonico. Ci date un cellulare se parliamo più vicini, perché io ho paura ad alzarmi. Che non si sente. Comunque è giusto, programma radiofonico. Certo, la potevano fare più difficile. Una coppia che fa canottaggio, basta vederti in faccia, dice: che fai canottaggio? Tu al massimo fai le passeggiate a Porta Portese. Ma era indeciso. Beh, intanto questo non dirlo. Vabbè, ma era indeciso. Ma senti bene adesso. Ah, così. Vabbè, aspetta un attimo, stai tranquillo, abbiamo tempo. Tranquillo, cazzo, scusa. Aspetta un attimo, stai tranquillo. Una vecchietta. Questo vuole fare di Prip, che senti, l'ho beccata l'altro giorno. Una vecchietta in una trasmissione, stupendo, senti. Ma io vorrei dire con tanto rispetto al signor Tommaso, se mi ascolta, Mi ascolta, signor Tommaso? Sì, sì, Don Mazzi l'ascolta. No. Don Mazzi l'ascolta? Sì, che l'ascolta. Guardi, io come ebrea, e quello che hanno fatto alla nostra razza ebraica e a tutta la mia famiglia e ai miei cognati che l'hanno ammazzato lì alle fosse ardeatine, e mia madre ai forni crematori. Io quello lo mettevo a pezzetti dentro al gabinetto. No, no. Un pezzo per volta lo dovevano tirare. No, come vabbè, la Fontanella. Vabbè, sentiamo. Signora, a compatire un soggetto di quel genere. Non va a compatire. Bene, con noi caro Parenzo. Beh, un personaggio mitologico, soprattutto a Milano, Cioè uno col sangue blu, sì, un nobile. Sangue blu, un nobilastro. Un nobile? Sì, nobile, sì, così dice. Ma non esiste il sangue blu, il sangue... Come non esiste? Rosso, esiste solo la razza umana, i nobili, i conti, le cose. Vabbè, detto superata. Il barone nero, leader del movimento Destra per Milano, il suo nome è Roberto Yonghi Lavarini Bon Urnavas, se non pronuncio male. Caro Lavarini, buonasera. Buonasera, come saluto sta? A voi e saluto soprattutto gli ascoltatori. Grazie che date voce alla vera destra italiana. Beh, adesso, ma cosa fa? Andiamo. Io vado in questura. Come vai in questura? Che c'entra la questura? Vado, scusa, in questura al commissariato qui vicino. Ma che c'entra? Perché devi andare? Denunzio, subito. Ma perché? Mi conoscono, gli amici della Digos mi conoscono, li saluti anche a nome mio. Signor Yonghi, ha detto il barone nero. Stupenda sta cosa, il barone nero. Un simpatico soprannome che mi dia chiedero i miei camerati negli lontani anni 80, sì, dell'allora fronte alla gioventù di via Mancini. Scusi, caro Lavarini, ma appunto perché lei ha detto Barone Nero, cioè, ma lei è ancora fascista? Me lo dica subito esplicitamente, però senza giri di parole, qui non ci sono giri di parole. Qui no, no, guardi, con me giri di parole non ne fa. Diciamo che culturalmente, spiritualmente sono fascista, nel senso che se fossi nato in quel, in quel periodo lo sarei stato. Beh, certo. Adesso non lo posso essere perché tanto non sono nato in quell'epoca. Certo, però è meglio, si stava meglio quando si stava peggio, questo si può dire o no? Beh, un po' di nostalgia lei ce l'ha, non perché in molte cose sicuramente sì, ma insomma i tempi sono cambiati, no, se vuole il mio giudizio storico possiamo parlare dovremmo essere molto prima, certo. Però sono per Platone e non con Aristotele, sono con gli Spartani e non con gli Ateniesi, potremmo andare avanti per tutto il percorso della storia dell'umanità. Hai capito, Parenzo? Cioè, no, si sta, per alcuni aspetti si stava meglio, ai tempi di Mussolini che oggi. È fascista. Vabbè, me l'ha detto, è fascista. Questo lo pensano una grande e larga fetta del popolo italiano. Lei dice, questa è una stronzata, deve essere per forza ripetuta. Sì. Cioè, secondo lei, una gran parte del popolo italiano è nostalgico di Mussolini? No, nostalgico, però evidentemente rispetto a questa classe politica, a questa situazione sociale, dice, all'epoca c'era un rispetto della cosa pubblica e una giustizia sociale diffusa che in questo ma quali sono le cose buone che ha fatto Mussolini? Quali sono le cose buone? Me ne dica una, la cosa più bella che ha fatto. Tutte le opere, non solo architettoniche, ma soprattutto le opere sociali. Le opere sociali. Pensione, il sabato, sono tutte cose che sono ancora in vigore e visibili agli italiani. Ma lei è anche monarchico, preferisco parlare del presente. Certo, ma lei è anche monarchico, mi raccontano. Scusi, Barone. Peraltro del passato di cui assolutamente non mi vergogno, ma vado fiero. No, ma questo si è capito. Sono nato nel 72, vivo nel 2013 e guardo al 3000. Sì, guarda al 3000, certo. Tutti noi guardiamo al 3000, anche se non ci saremo più. Monarchico, ma io penso alle generazioni future. Certo, è monarchico anche, Parenzo. È anche monarchico, signor Lavarini. Come padre, come padre, come italiano. Come padre, come patriota. Sì. Parenzo è anche monarchico, signor Lavarini. Appunto dico fascista, monarchico, non gli manca un cazzo. Yonghi Lavarini è monarchico, perché uno non può essere monarchico oggi, scusa, abbi pazienza. Se gli piace così, come dire che mi piace Topolino, va benissimo, anche a me piace molto i puffi piacciono molto. Vabbè, la monarchia esiste in altri paesi europei oggi. I puffi, quello italiano. Ma non è vero, la monarchia esiste in tanti paesi europei. Ma dai, perché? Io ho molto rispetto per i puffi. Allora, perché mi piacciono i puffi. Nell'Italia cristiana che lei immagina, scusi Lavarini, c'è posto per la signora Chieng, per esempio, oppure uno scempio la Chieng ministro, la signora Chieng? Io non l'avrei fatta ministro, però indubbiamente ci sono in Italia tanti immigrati nella mia concezione romana imperiale. Roma che dà la cittadinanza, e quindi la mia concezione è sicuramente oltre che ci sono distinzioni, la nostra identità è chiara di popolo italiano, la maggioranza di italiani lei non l'avrebbe fatta. Bianchi, eterosessuali e cattolici, ma siamo una civiltà aperta al mondo. Poco, diciamo, l'impero romano. Meno entrano, meglio è, dice. Beh, l'impero romano, erano tutti froci l'impero romano, si inchiappettavano la grandissima, caro Yonghi Lavarini. Diciamo che la cultura classica era molto tollerante. Esatto. Traffico, torniamo subito. Beh, un bel personaggio sto Yonghi Lavarini, caro Parenzo. Ma perché devi essere sempre dissacrante? Perché? Io dissacrante, ha invitato uno che è un barone, che dice di essere ancora monarchico, che incita al fascismo, che non vuole negri e parla di bianchi, la cittadinanza romana lo dava all'impero romano, ma dice il matto sono io poi, ma dai. Traffico. La zanzara. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara... Amici miei, lo sai Parenzo che io voglio il barone nero ospite fisso. Ospite fisso, ma te lo giuro, voglio il barone nero ospite fisso. Mi piace un sacco, perché barone nero, Yonghi Lavarini, è... Perché hai il gusto dell'orrido. No, dice le cose come stanno, ovviamente no. Dice le cose dirette, senza infingimenti. Cioè, vabbè, Longhi, Lavarini, Von... Von Urna, perché lo pidi per il culo per la sua cosa? Von Urnavas è una famiglia. Urnavas è discendente. Chiedo a Von Urnavas, scusi, se ho capito bene, perché magari secondo me era un po' incasinato, ho sentito male. Dica, barone, se ho capito bene. Allora, italiani, cittadini solo bianchi e cristiani, eccetera. No, no, sì, immigrazione. Ma Parenzo ha capito male, si lavi bene le orecchie perché ha capito male. Bravo, bravo, Barone. Scusi un attimo. Dico e ripeto e affermo. Lei che farebbe con i clandestini? Scusi. Trociani senza peli sulla lingua. Sì. Che è chiara l'identità culturale, religiosa, etnica dell'Italia. Beh, e dell'Europa. Però, Barone, scusi un attimo. Le caratteristiche che precise. Vabbè, l'Italia. Sì. E l'Europa. Questo l'abbiamo capito, Barone. Religiose e culturali. Benissimo, punto. Le chiedo una cosa. Talmente evidente. Con i clandestini, che lei che non riesce a capire. Con i clandestini che farebbe lei, Barone? Ma i clandestini, essendo clandestini, vanno cacciati. Rimandarli a casa loro. I profughi, certo, sono un'altra cosa. E i Rom? Cosa le sembra dei Rom? C'è questa storia incredibile di questa ragazza in Grecia, no? Sì, questo sfata le leggende metropolitane, dei spada? Buonisti, radical, sì, chic, che ci indicavano i Rom come coloro che con balli zigani, sì, pascolavano, invece, i cavalli e aggiustavano le pignatte di metallo, sì, in realtà no. Purtroppo la realtà concreta che tutti i cittadini italiani, sì, sanno, soprattutto quelli che vivono nei quartieri periferici, ad esempio, sì, a Milano, questi vivono di accattonaggio, mandando le loro donne, ma i, che loro, ci facciamo, letti, costi i loro figli a chiedere l'elemosina ai semafori quando non vanno a rubare nelle case. Per questa cui è la verità. Che ci facciamo con sti Rom? Questi Rom, quelli che sono italiani, rispettino la legge italiana. Vabbè. E quelli che non sono italiani, quindi sono clandestini, tornino comodamente a casa loro. Vanno cacciati. Sono nomadi, circolano. Devono circolare, non devono fermarsi. Se si fermano devono rispettare le leggi, quindi di andare continuo a scuola, sì, quindi pagare le bollette di acqua, luce e gas. Non è che possiamo fare delle eccezioni, sì, che non possiamo fare del razzismo al contrario nei confronti, senta, dei cittadini italiani. Caro Barone, ma Priebke, che personaggio è secondo lei? Priebke è un personaggio da rispettare e perseguitato, il signor Priebke, che è morto peraltro. Beh, io tanto ho rispetto per, vabbè, i defunti, adesso è davanti al buon Dio e sarà lui a giudicarlo. Vabbè, ma è stato perseguitato, dico, dall'Italia. No, dico che la cosa sicura è, sì, che intanto i funerali li dovevano fare nella, vabbè, sua parrocchia. Sì. No, le dico perché questa chiesa è stata questa. La posizione della Chiesa è stata del vicariato di Roma, è stata veramente ipocrita, sì, perché no. Priebke si può, io non entro in mezzo, lo chiami il capitano, lo chiami il capitano direttamente, andava a messa tutte le domeniche, si, sì, confessava e si comunicava, sì. Un cristiano, ma per lei è un assassino o no? Per lei è un problema del parroco, d'accordo, del parroco di Roma. Per lei è un assassino o no? È un assassino o no, secondo lei? È un soldato tedesco che ha obbedito agli ordini superiori. Ma lei non lo definisce un assassino. Devo dire sì, che la verità, qual è che la verità, gli italiani sanno, e bah, bisogna ribadirlo e ricordarlo, parlando, che se non ci fosse stata l'infame strage comunista di Via Rasella, non, ma, ci sarebbe, ma, stata nessuna rappresaglia e non, radio, ci sarebbe stata nessuna decimazione. Però Barone, questa, Barone Nero, è la tragica, ma, verità. Barone, c'è la tragica verità, è verità, la tragica verità è il livello di alcol, ma, verità, ma questo è Barone. La storica. Ma Parenzo, quale sangue, scherzo, blu? Ma sangue alcolico, quale questa blu? Questa è la verità. Ma quale verità? Ma cos'è diventata questa qui? Ma Radio Heil Hitler? Ma chi è questo qui? Libro in, ma, più, e poi dopo, ma dove l'hai trovato? Il barone nero. Poi il barone nero. Von Bulov. Il von Futtenbrock. Scusi, barone. Barone. Che ha fatto di buono? Il nazismo, che ha fatto di buono? Io non credo nel concetto di male assoluto. Non era solamente il diavolo, il demonio, per cui il nazismo non è il male assoluto, anche nel cattolicesimo, no, non è, ha fatto tante cose positive, come, il nazismo, come lo stesso, come lo stesso regime stalinista, ma ho sentito troppo, non è che chiamo la polizia, basta, hanno la polizia, fatto cose negative, chiamo la polizia, chiamate la polizia a Milano, basta, chiamo la polizia, no, pronto? Sono verità storiche, sì, bravo, sto chiamando la polizia intanto, ma che ha fatto di buono Hitler, basta, chiamo la polizia, mi chiamate il telefono della polizia, per alla politica monetaria ed economica il nazionalsocialismo, nulla da dire. Sì, cioè, che cosa, continui a parlare, chiama la polizia, Longoni, chiama la polizia. Chiama la polizia. 118, dove si trova? Chiama la polizia, la faccio venire a prendere. Chiamate la polizia, basta col Baroni. Basta, non Barone blu, non basta, piace, sangue blu. Non piace, basta, la verità. Finito. Barone, finito. Che ha fatto di positivo Hitler? Scusi, due cose che ha fatto di positivo, Barone. Ho detto che Barone, il regime nazionalsocialista ha fatto in Germania grandi cose per il popolo tedesco. Ma fermatelo, fermatelo subito. Politica industriale e con gli ebrei, sociale politica persino ecologica. Che con gli ecologica? Ma ha cacciato 6 milioni di ebrei! Ma che politica ecologica? Perché la democrazia non ha fatto la democrazia. Ma quale ecologia? 6 milioni di morti! La democrazia non ha fatto milioni di morti. Basta. La democrazia che bombardava Dresda, la democrazia delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Barone, un attimo, morti. Barone, il giornale radio, Barone. La zanzara. Caro Davide, qui c'è un altro numero uno in giro, nella giornata in cui Berlusconi va un'altra volta a processo per la compravendita dei senatori, De Gregorio dice che si deve ritirare dalla politica, lui il principale accusatore che ha patteggiato 20 mesi, dice anche che fu una guerra a Prodi, vabbè, la solita storia che sappiamo di De Gregorio, prima berlusconiano, poi a un certo punto di notte arriva il padre nei sogni, gli dice vai ad accusare Berlusconi, lui dice sì, mi devo redimere, devo cambiare, e va ad accusare Berlusconi. Secondo alcuni ha cercato di trattare fino all'ultimo per incassare dei quattrini, per ricandidarsi eccetera eccetera, non ce l'ha fatta e a quel punto ha spifferato tutto quello che sa. Ho riassunto bene? Un attimo, commissario. Che c'è? Con chi stai parlando? Sto chiamando, no, vai pure avanti, sto chiamando la polizia un secondo. Ancora con sta polizia, ma perché? Per il barone? Sì, commissario, c'è un signore a una radio 24, alla Zanzara, signor Longhi Lavarini von Ribbentrop, che dice delle cose sui Rom. Ma sui Rom non ha detto niente. Il nazismo faceva ecologia. Potete intervenire? Sì, adesso vi do l'indirizzo. Pronto, siamo in diretta. Sì, un attimo, fammi sentire Verdini, non c'entra niente con i nazisti. Verdini, numero uno assoluto, report. Non l'ho messo nei giorni scorsi, non abbiamo avuto tempo, però scatenatissimo Verdini, numero uno. Ignazio Nove, lei lo conosce? Sì. Lui ci ha detto che lei gli ha venduto dei terreni. Sì. Che una parte gli avrebbe dato dei soldi in bianco e una parte gli avrebbe dato dei soldi in nero. Sì. È vero? Sì. Ma per fortuna risale, diciamo, a tantissimi anni fa, l'operazione del 1989. Qui confessò di aver preso dei soldi in nero per una compravendita di non so che cosa nell'89, dice lo fanno tutti, ma soprattutto si scatena contro le inchieste, contro i giudici, contro i giornalisti. Aspetta, parla col commissario tu. 56.000 pagine di cazzate che hanno usato tutti i giornalisti in maniera impropria, sulla quale nessuno, e questa è la vergogna vostra e del nostro paese, prima che uno possa dire la sua opinione, cazzate, fate girare come si dice, come polvere. Questi finanziamenti per 100 milioni di euro senza adeguate istruttorie, di cui vi accusa Banca d'Italia, no? È una cazzata. Così ho già risposto, è una cazzata. Ma io leggo le intercettazioni diffuse. Ho capito, dice... ma se vivete sulle intercettazioni, io vi auguro un giorno che vi intercettino le mogli, così state più fermi, cazzo. È il numero uno, dai, aspetta, aspetta, fate girare le cazzate come polvere, sentite questo. P3 e qui e là e riciclaggi e cazzi e mazzi, perché questo è successo, la prego, vada a vedere. Senatore, hanno riportato i fatti che erano accaduti. Ma quali cazzo? Quei fatti non ma sono quale veri, cazzo non di fatti? Hanno riportato le chiacchiere di roba che la Procura della Repubblica ha fatto circolare 56.000 pagine di cazzate. Quali fatti? Titoli del TG3, il barone è ancora con noi, Parezzo, chiama la polizia. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi, pagati 3 milioni di euro per il passaggio di De Gregorio al centrodestra facendo cadere Prodi, la difesa, decisione straordinaria. PDL contro il presidente del Senato Grasso sul voto palese per la decadenza di Berlusconi, nel partito scontro per le assenze in aula del Senato sulle riforme. Il presidente napoletano chiede con forza ai partiti di realizzare le riforme, un'onda di faziosità e calunnie, dice, mira a destabilizzare governo e istituzioni. Renzi fare una nuova legge elettorale anche senza il PDL. Il governo non cadrà. Cuperlo nella manovra disposti a esodati, Vendola, reddito minimo garantito. Una risoluzione del Parlamento europeo chiede di modificare la legge Bossi-Fini. Servono solo interventi coordinati dell'Unione improntati alla solidarietà. Nel Kent, in Gran Bretagna, ucciso di botte un ragazzo italiano di 19 anni. Gli avrebbero urlato, ci rubi il lavoro. Arrestati 7 giovani, solo uno inglese. Non ce l'ha fatta Alberto Musi, esponente dell'UDC torinese in coma da 19 mesi. È morto nel giorno del processo al presunto assassino Francesco Furchi. Zanzara! C'è una zanzara tigre. Eccoci qui con Roberto Ionghi Lavarini, detto il Barone Nero, leader del Movimento Destra per Milano. Caro Lavarini, lei a chi è più vicino politicamente? Al signor Storace? Adesso stiamo ricostituendo finalmente la vera destra italiana. Sì. Il 9 novembre a Roma ci sarà una grande adunata per rifondare Alleanza Nazionale. Ma lega, a chi è più vicino? 9 novembre, vero? A che ora? Io alle scorse elezioni politiche ero candidato con la destra di Francesco. Per cui è vicino alla destra di Storace. A che ora il 9 novembre? Questa, sì. Questa adunata sediziosa a che ora il 9 novembre? Alle 15, non benissimo. È sediziosa, ma è avviso è alla polizia del commissariato per ricostituire la destra italiana, sì. Finalmente. Senta, quindi, Barone, ma lei la polizia in ascolto prenda nota per cortesia. Caro, la polizia in ascolto prenda nota per quel giorno 9 novembre. Quello che ha detto Verdini su una sola cosa, schedateli tutti. Se sentissero le nostre conversazioni personali, si farebbero delle grandi risate. Io quando parlo al telefono con i miei amici dico sempre: maresciallo, non prenda nota, stiamo ma lei scherzando. Tanto le corbellerie le dice anche qui, quindi è una vergogna ridicola. Vabbè, però Barone, perché è strappolata una dichiarazione. Vabbè, però scusi, aspetti un attimo, adesso lei abbiamo capito. La telefonata viene stravolta completamente. Vabbè, il senso. Però scusi Barone, lei lo fa il saluto romano ogni tanto? Sì, mi sembra, l'ho visto. Ma per me è un saluto assolutamente sacro, quindi si fa nelle grandi occasioni ufficiali, quindi quando si salutano i caduti che passano a miglior vita. Lei fa il saluto romano così? Quello, al campo 10 per onorare i caduti della Repubblica Sociale, a Predappio quando vado a trovare, a visitare la tomba del Duce, in quegli ambiti assolutamente. Capito Parenzo? Ma perché? Ma gli hanno ritirato il foglio di via, il permesso di soggiorno, le ma cose, non c'è il cittadino signori, italiano che c'è. Ma molto meglio, ma questo non è un cittadino italiano, uno che parla così è un anti-italiano, prima di tutto. No, prima, caro Parenzo, Von Ribbentrop, caro sangue blu, sangue blu. Sangue blu, sangue alcol, altro che trovare un partito di destra. Vabbè, adesso che questo vediamo. Segnamente li rappresenti. Guardi, 9 novembre. Parenzo, lo sa quanti calendari del Duce vengono venduti in Italia ogni anno? Quanti? 3 milioni, superano anche Padre Pio e quello. E che c'è da vantarsi? E che c'è da vantarsi di questo? E che c'è da vantarsi? Questo che vuol dire? Di com'è, dove batte il cuore profondo del popolo italiano? Dove batte? Con Mussolini, il cuore profondo del popolo italiano. Gran parte degli italiani hanno ancora un bel ricordo, ma parliamo del futuro, non del passato. Però scusi, il 9 novembre, polizia per cortesia, prendere nota. Però Barone, 9 novembre a Roma, schedateli tutti. 9 novembre, grazie. Parenzo, un attimo solo. Allora, Barone, ma scusi, il signor Pino c'è. No, il signor Pino Barone. Pure camerata. Vuole. No, camerata. Ma che no, peggio mi sento, mi vengono i conati. Ma quale camerata? Quale Barone? Poi gli dice anche grazie. Ma grazie cosa? Grazie. Il signor... Grazie al cazzo, grazie. Che il grazie? Signor Pino Cette. Molto elegante, Parenzo. Sì, ma sarà più elegante una parolaccia che dire queste fregnacce sul saluto romano, bravo, l'apologia bravo, di Parenzo. Fascismo che fa in continuazione da una radio importante come questa. Scusi, il signor Pino Cette. Ma non rappresenta nulla, per fortuna, lei. Nulla. Rappresenta l'alcol, il dramma dell'alcol. Orgoglioso della storia. Scusi, orgoglione, non orgoglioso. Un attimo. Caro Parente, me ne frego. Perché io rispondo alla mia gente, al mio popolo, ai quale miei gente? Sì. Ma la gente dovrà rispondere, agli inservienti in camice bianco che le legano le braccia. Bene, ma quale, Parenzo, quale gente? Scusi, alla mia gente. Scusi, Barone. Barone, ti ha fatto un bel servizio. Io parlo con Cruciani. Scusi, Barone, però lei mi deve dire la verità. Ma che fortuna che hai, che parla solo lei con te. Lei mi deve dire la verità. Lei è un ammiratore anche di Pinochet, perché una volta disse che è stato un assolutamente un grande statista che fa certo, dal comunismo e dalla crisi economica. Per forza. Però, scusi, cosa disse sui comunisti? Cosa disse sui comunisti? Non a caso, Parenzo, che qua tutti ridono, ma non a caso. l'attuale presidente del Cile, un ex ministro di Pinochet, votato dai cileni, votato dai Scusi, cileni Barone. Presidente della Repubblica Cilena. Barone, che ma cosa disse? La storia che voi, raccontate, cosa la disse? Storia dei cosa disse? Dei... meno male. Reale, meno male. Meno male. Che cosa ma disse? Meno male. Un ma attimo, meno male. Mi fai dire una cosa? Cosa disse dei comunisti, il signor Pinochet, una volta? Beh, una battuta che nel clima di guerra fredda era assolutamente condivisibile. Beh, no, lei disse... buono, il comunista buono è quello sotto tre metri di terra. Beh, lei la condivide ovviamente. Adesso non ci sono più comunisti così pericolosi, però in quegli anni, insomma, in cui aveva una sua ragione, aveva in cui l'Occidente combatteva contro il comunismo. Vabbè. Era proprio in guerra, quindi guerra. Hai fatto lasciano circolare da solo la sera questo signore? Cioè gira da solo o accompagnato quando va per strada normalmente, no? Vabbè, devo lasciare il barone. Torni presto, barone. Torni presto, barone. Borsa, borsa, chiama la polizia, tu sei il coraggio, chiama la polizia, borsa. Cucù, scusate se vi ho disturbati. La zanzara. Intanto vi benedico e vi esorcizzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Zanzare, una parola d'umanità, te più vista in città e se no dormire. Beh, cari ragazzi, è finita da tutte le parti questa incredibile interrogazione dell'amico Sergio Silvestris, PDL europarlamentare, che chiede alla Commissione europea, e dico la Commissione europea, di intervenire per capire dove è finito, come sta, come non sta, se è trattato bene o è trattato male il cane di Monti, Empi. Una cosa pazzesca, dai. Una cosa pazzesca. Cioè, tu pensa, a un certo punto, no, la segreteria di Barroso, no, Parenzo? La segreteria di Barroso, no, entra il portavoce, il segretario, e cosa fa Barroso? Toc, toc, no? David, ma dove cazzo sei? È sparito. Adesso lo recuperiamo, eh. Sentite uno dei membri del governo, De Luca. De Luca, uno dei membri del governo, cosa pensa della manovra economica del governo stesso? Avete messo le mani? Sentite, sentite. Altro che non abbiamo messo le mani in tasca, come ha detto il vicepresidente Alfano. Voi avete messo le mani in tasca, nei taschini, nelle tasche interne, nelle giacche e dappertutto, anche in luoghi che non dovrebbero essere violati. Pomate, pomatine, citronella, manco l'urghe niente fare, sanza, sanza, sanzare, te vengi in attuale, no, tu mette me riempisce te. Ancora De Luca, ancora De Luca. Già mettere tre nomi per una sola tassa è un atto di demenzialità e di mancato rispetto per i cittadini. Un membro del governo contro il governo. 800 24 00 24, sei tornato o no? Sempre. Ma dove te? Sempre di che? Sempre di cosa? Sempre, io c'ero sempre, sono caduto un attimo, quando voi dite caduto, in realtà cade la linea, ma non io fisicamente, ci sono sempre. Sì, ma dove cavolo sei? Scusa, prima eri da una parte, adesso sei da un'altra parte. Prima, sì, non posso, andando dal barone. Vabbè, non si sente niente. Filiberto da Roma, dai, su, fammi parlare. Non si sente, si sente poco, dai, Filiberto da Roma, su. Buonasera, dottor Parenzo, sì, buonasera, dica. Dottor Cruciani. Dica. Vi chiamo dal centro dell'assedio, sì, almeno fino a questa mattina. Cioè dove? Porta Pia. Sì. Abbiamo patito l'indicibile con questa occupazione incredibile. Ma adesso avete patito l'indicibile. Io le dico, ha lasciato panico e distruzione. Panico Siloni e distruzione. Divelti, queste strade che sono solitamente di un quartiere borghese tranquillo sono diventati orinatoi pubblici. Ah, quello sicuro, quello ecco, sicuro. Ma poi andiamo a guardare la natura di questo sciopero, che nasce come sciopero dei trasportatori. Dei sì, vabbè, no, ma adesso non mi interessa la natura di questo sciopero. E poi diventa invece uno sciopero che raccoglie di tutto. Sì, ma cosa è successo lì a Porta Pia? Cosa hanno lasciato? Ma ancora ci stanno questi qua a Porta Pia? No, io non so di chi si tratta. No, questa mattina, ma l'autorizzazione finiva venerdì sera. Vabbè, ma le solite cose all'italiana, su, dai. No, ma il questore dice: voglio andargli incontro. Il prefetto non prende provvedimenti. Lupi è a Westminster per San Tommaso Moro. Cioè, se coloro che devono dare o revocare le autorizzazioni fossero corresponsabili civili dei danni che succedono, allora forse uno ci penserebbe un attimo. Guardi, secondo me quando uno occupa un posto e non lo può occupare, se uno occupa una località pubblica, un luogo pubblico e non lo può occupare, dovrebbe essere preso a calci nel sedere dopo due secondi. Bene, punto e basta. Il punto è che chi è rimasto non sono trasportatori, studenti, eccetera, erano tutti quanti africani, eritrei, somali, eccetera. Vabbè, questo. Che chiedevano questo, pretendevano appunto di occupare case, eccetera. Va bene. Ora, Filiberto, paese... ho capito perfettamente. Giorgio da Padova, buonasera. Il problema è che la legalità deve riguardare tutti, però. Mica sì, vabbè, ma certo, ma Giorgio da Padova, dai. Certo, niente, c'è il tuo appello alla legalità. Ma non è l'appello alla legalità. Se uno può stare in un posto, regole, bene, altrimenti a casa. Ma no, sì, ma sono non cose diverse, non fare l'ipocrita. Giorgio da Padova, dai, non fare il... La legalità è legalità. Sì, è sì, ma non fare il... lo straccione da quattro soldi, anche le Verdini deve rispettare la legge. Ho cosa vuol dire? Tutti, sì, ma certo, richiamo... Giorgio da Padova, non c'è dubbio, ma... dai, Giorgio. Sì. Ciao, ciao, Davide, ciao. Allora? Io volevo solo dirvi una cosa, stai tranquillo, Davide, lascia parlare quell'altra testa di cazzo del barone, non so cosa, perché si squalifica da solo, certe cose vanno sentite più volte, non c'è bisogno di arrabbiarsi. Io all'inizio ero arrabbiato come te, dopodiché tutto quello che gli faceva dire Cruciani, secondo me era l'offesa più grande che gli si potesse fare, quindi sentitelo pure, fategli dire tutte le sue stronzate e col tempo che passa ti passa vabbè. Anche Giorgio, grazie. Vittorio da Frosinone, buonasera. Sai chi c'è al mio fianco? Non lo so, chi c'è al tuo fianco? Dai che mi hai già rotto le scatole stasera, chi c'è? E sono al Club Freccia Club . E al mio fianco c'è un ex deputato che si chiama Elio Veltri. Beh sì, mitico Elio Veltri, come no? Deputato di Pietro, se non sbaglio, qua, il signor Veltri. Ex deputato di Pietro, è qui, come stai Elio? È la radio 24, la Zanzara. Stai bene? Sta bene, un po' giù, un po' abbastanza. Non ti vuole parlare, Vittorio da Frosinone, dai. Buonasera. Sì, dica. Volevo intervenire un attimo sulle modalità di Parenzo, no? Nel criticare sempre tutti quelli che non sono allineati e coperti con la sua ideologia. Sì. Mentre tutti gli altri sono tutti o dementi, o chiama l'ambulanza... Beh, certo, poi quando qualcuno parla del nazismo, del fascismo in quel modo, non è che si può dare tutti i torti, dal punto di vista Cruciani, di Parenzo. Allora, guardi, Cruciani, non mi riferivo a quello, mi riferivo anche quando parla la gente normale, vabbè, che magari non è allineata al suo pensiero. Vabbè, Vittorio, grazie. Francesco da Pisa. Francesco da Pisa. Buonasera. Dica. Praticamente, la mia profonda indignazione. Per chi? Per quanto riguarda... alcune losche figure, secondo me, losche figure morali, tipo quella che fa l'esaltazione di quel triplice di merda, morto per com'è, e quell'altro, il barone, cosa pare, con Mussolini. Ora ragazzi, loro intanto devono baciare per terra che siamo in una nazione democratica. Okay. Sì, ma questo non c'è dubbio. Dove possono esprimere queste cose, primo? E secondo poi, cioè, praticamente, dal momento in cui i Pribi, che cosa vale, hanno massacrato 350 e passa innocenti, che cazzo viene a dire quella scappata di casa che dice i comunisti e cose vale? Io sono stato giovane comunista della FCC, comunista, ma eccetera, uomo di sinistra, e mai nessuno mi ha inculcato questa ferocia che loro esprimono. Se questa è l'espressione delle ideologie che loro hanno, come dire, coltivate, eccetera, eccetera, devono andare a fare tutti in culo. Non meritano neanche questa bontà che gli date voi, perché voi gli state facendo una beneficenza intellettuale. Beh, adesso, beneficenza, non esageriamo, su. Intanto c'è una notizia clamorosa. Notizia clamorosa che viene dalla Germania, dove il portavoce del governo tedesco accusa gli Stati Uniti di aver ascoltato il telefono della Merkel, in sostanza, cioè sotto controllo il cellulare della Merkel, una cosa pazzesca, una cosa incredibile. Anche l'Italia, no? Scoppiata, sì, vabbè, ma la Merkel, il cellulare della Merkel, i servizi segreti americani, ma di che parliamo? Dicono, dicono. Mosquito sing, mosquito cry, mosquito live. Marcellino da Verona, buonasera. Sì, salve Cruciani. Dica. Collegandomi a quella storia lì del telefono della Merkel, si faccia dire cosa hanno fatto gli americani i tempi che furono, quando non volevano più cambiare i dollari perché erano che andavano giù. Sì, ma lasci perdere adesso i dollari, eccetera. Comunque, qui è un altro discorso. La sì, Germania accusa. Hanno sempre battuto la legge in Germania, gli americani. Comunque, a parte quello, io adesso sono un po' ignorante perché ho fatto la terza media. Sì. Prima si parlava di Mussolini. Sì. E lei ha chiesto cosa ha fatto Mussolini. No, ma non è che l'ho chiesto alla gente, l'ho chiesto a uno che era ospite nostro, sì, un barone nero. Sì. Comunque, che a me mi risulti, le pensioni le fondò Mussolini, le colonie che adesso hanno, si può dire, hanno distrutto, perché da quel che vedo non ci sono più, perché vedo che sono diventati come alberghi per portare i ragazzi al mare. Ma non ho capito, cosa vuole dire lei? Non ho capito, signor Marcellino da Verona, di cosa vuole parlare? Lei diceva che Mussolini era stata una cosa negativa per l'Italia. Vabbè, allora perché non ha avuto il tempo di fare le cose come non ha avuto il tempo. Mi sembra che ce l'abbia, mi sembra ne abbia avuto anche troppo, signor Marcellino. Come? Mi sembra ne abbia avuto pure troppo. Però se lei adesso io vabbè, lei con gli anziani sì, di quel tempo che c'era Mussolini, sì, e praticamente Mussolini ha sempre fatto del bene. Sì, del bene. Vabbè, Marcellino, lei mi sa, l'orario dell'aperitivo è leggermente anticipato. Laura da Milano, buonasera. Lo vuoi salutare? Sì, buonasera, volevo dire una cosa a proposito del cane di Monti, che sì, i cani hanno tutti un microchip, sono registrati in un'anagrafe, in questo caso lombarda, quindi sarebbe facilissimo capire chi in questo momento ha il cane di Monti. Sì. Quindi non c'è bisogno di andare a chiedere, a fare un'interrogazione parlamentare, nel senso che basterebbe consultare l'anagrafe lombarda dei cani. Sì, vabbè, Laura, adesso probabilmente non è stato manco registrato questo cane, non lo so, il punto allora non è quello. Chi viene, scusi, però chi fa le leggi non rispetta quelle relative al possesso dei cani, io spero che l'abbia fatto. Guardi, non lo so, ci sono delle foto in cui questo cane è in braccio a una nipote di Monti, sicuramente non ce l'ha a casa sua, su questo non c'è dubbio. Però è facile anche da capire, senza andare a chiedere, a fare un'interrogazione. Scusi, alla, ma all'Europa, a me, cioè, in fin dei conti, a me, ma che me frega a me dove sta il cane di Monti? Scusi, ah, a lei importa? No, beh, io spero solo che il cane sia bene. Va bene, Paolo da Milano, buonasera. La saluto. Paolo. Buonasera, dica. Io non sono, premetto che non sono simpatizzante del barone nero del signore di prima, della quale esponente di destra non conosco il nome, però penso che alla fin fine una persona equilibrata, che dico svolga la funzione del duce, forse in questo momento ci voglia, perché sono non ho capito, una persona equilibrata che non ho capito, una persona equilibrata che svolga la funzione del duce, ma scusi, ma lei ma le mette insieme? No, una funzione unica, un personaggio. Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Allora, vuol dire che sostituisca in tonso tutti i nostri cari politici che sono sì, 40 anni. E governi da solo. Che governi da solo? Da solo, sì. Ma eletto da qualcuno oppure così, con i carri armati? Scusi, mi spiego. Eletto da qualcuno. Penso che se no non sarebbe una persona equilibrata. Va bene, Paolo. Pier da Como, buonasera. È pronto? Sono io? Sì, fino a prova contraria è lei, poi non so cosa sia successo. Ah sì, va bene, non importa, era Cuneo. Come non importa? Che vuol dire? Ah, Cuneo, va bene. Sì, Cuneo. Sì, va bene. Signor Piero, vale. Io fumo canne da quando avevo 15 anni, ne ho 60. Sì. Sono stato tossicodipendente, sono stato alcolizzato. Pure. E alla fine sono un 15 anni che non faccio più uso di altri stupefacenti e mi sono tolto dal CERT e da tutte quelle cose tramite i cannabinoidi. Cioè lei è stato tossicodipendente anche, quanti anni ha lei, scusi Piero? E anche 60. 60 anni, per quanti anni è stato tossicodipendente nonché alcolizzato? Da quando avevo 15 anni. Fino a? Fino al 15 anni fa. Fino a 15, dunque è stato fino a 45, per 30 anni lei è stato sì, tossicodipendente, ma di cosa? Eroina, sì, cocaina, cosa? Eroina. Lei è stato eroinomane per 30 anni? Beh, terribile. 30 anni e sì, anche alcolizzato? e anche alcolizzato. Mi sono appoggiato al CERT, ho dovuto togliermi dal CERT per rifiutare il metadone, perché è una droga di Stato, e tramite i cannabinoidi sono riuscito a smettere sia l'alcol che l'eroina. Cioè lei adesso si fa le canne in sostanza? Sì, sì, chiaramente. Quante? Ma ne faccio una quindicina al giorno. 15 al giorno, beh, 15 al giorno. Ma mi pare anche lucido, scusi se ironizzo su questo. Sì, ma guardi, io studio anche filosofia e teologia. Teologia sono profondamente ateo, e proprio per questo la studio. E mi ritengo una persona normalissima, insomma. No, ma infatti si sente, non sembra, non sembra una persona, come dire, anormale. Comunque, lei si fa 15 canne al giorno. Sì. Ma cosa, hashish, marijuana, cosa fa? Sì, hashish, marijuana, derivati dai cercatani. Ma quanto spende, scusi, per queste cose? Ecco, quello purtroppo è un problema. Perché diciamo che ogni giorno sul mercato una canna va sui 2,50 euro, ecco. 2,50 euro a canna. Sì. Beh, certo, se lo Stato in Uruguay lo Stato praticamente vende lui le canne e gli spinelli, da sottolineare questa cosa. Comunque lei dice: io sono uscito anche grazie alle canne dall'eroina e soprattutto grazie alle canne. Soprattutto adesso avrà fatto pure un'altra terapia. Va bene, anche la mia volontà, chiaramente. Lei ci ha avuto un culo così, caro Pier, perché altre persone erano già crepate di AIDS, di altre cose. E tutti i miei amici. Vabbè, dunque lei ci vuole dire che le canne non fanno male? No, non ci può dire questo. Non dico che non fanno male, fa male il modo di fumarle. Cioè, come nella sigaretta, il problema è nel calore del fumo. Vabbè, comunque, provoca, 15 canne provoca che? Provoca delle alterazioni alle cellule. Delle alterazioni. Però, per esempio, mangiando dei pasticcini o altre cose, evitando la respirazione, si eliminano anche tutta una serie di inconvenienti. Pier, che le devo dire? Lei ha fatto l'elogio della cannabis. Io non lo faccio. Ma non l'elogio. E fra l'altro, io ho cominciato bucandomi. Lei non ha cominciato dagli spinelli per passare all'eroina? No, ho cominciato bucando. Io ritengo che le persone che fumano spinelli, si bucano o fanno tutte quelle porcherie che fanno i ragazzi oggi. Lei ha iniziato direttamente con l'eroina? Sì, direttamente con l'eroina. E tutte quelle persone molto probabilmente, se trovassero il fumo lecito, non farebbero altre cose. Inoltre volevo anche aggiungere che secondo Giovanardi tutta l'Italia dovrebbe essere alcolizzata. Perché? Perché la maggior parte degli italiani beve. Non mi dica che l'alcol non è uno sufficiente. Sì, vabbè, ho capito, ma non è che tutti quelli che bevono sono alcolizzati, per fortuna, caro Pier. Grazie a Pier, grazie. Fantastica battuta di Gasparri che dice: cellulare Merkel controllato dagli USA, gli potevano dire di fare meno fesserie. È meravigliosa. Clotilde da Roma. Eccomi qua, buonasera. Mi sente? Sì. Allora senta, signor Cruciani, io domani vorrei informarmi col mio avvocato. Sì. Se è possibile farle una denuncia a lei. A me? Sì. Ma tanto ce n'ho poche già di denunce, per cui vada pure. Non mi interessa. Vada pure, non si preoccupi. Per aver fatto parlare quella specie, sottospecie di conte nero, come Barone nero, signor Yonghi Lavarini, io lo dico io, sottospecie. Barone nero. Un altro discorso. Per apologia di fascismo, sa che è ancora un reato. Ma sì, no? Ma denunci lui, che c'entro io, scusa? No, lei l'ha messo in onda. Quello non c'è dubbio che l'abbia messo in onda. Sì, l'ho fatto parlare, certo. L'ha fatto parlare, quindi lei ha concorso. All'apologia, ma che denunci? Guardi, sono contento, sono contentissimo se lei mi denuncia. Guardi, stappo lo champagne. Un attimo col signor Parenzo. Sì, prego, parli, sono sta qui. Sono qui, cara. Signor David? Sono qui, cara. Buonasera. Sì. Buonasera a lei, cara. Lei mi deve spiegare una cosa, come fa a sopportare queste cose che fa Cruciani? Mi scusi, signor Parenzo. Ma non è così, lo disegnano così. Di rispetto nei suoi confronti. No, ma se ne voleva andare oggi, infatti, davanti al nazista. Ma infatti, ma avrebbe fatto bene. avrebbe fatto bene. Ma perché, mi scusi, è un insulto che lei fa al suo collega Cruciani. Se ne rende. Ma sì, ma non è la prima volta. Senta, il punto è questo: qui da noi alla Zanzara anche i nazisti possono parlare, capito? Se lo non mette in testa. Questo, no, sì, da noi anche i nazisti possono parlare. Se lo mette in testa, capito? Io, noi siamo contro il fascismo, contro il nazismo, contro il comunismo. Anche i nazisti possono parlare, capito o no? C'è Parenzo che li combatte, io anche in parte li faccio parlare. Calmino, non si agita. Ma io non sono agitato, lei faccia tutte le denunce che vuole, io me ne fotto delle sue denunce. Sì, ma comunque sia calmino. Ma io sono calmissimo. Fa parlare con Parenzo per cortesia. No, ma parli un attimo. Eccomi, cara. Sì. Vada. Ecco. Ma lei non può reagire in maniera più... Ma ha reagito come un leone. Sì. Ma io ho reagito nel senso che... Parenzo, no, guardi, anzitutto decido io con chi parla lei qua, in questa sede. In questa sede decido io, ha capito? Anche su Parenzo. Pubblicità, torno subito da lei. Signora Clotilde, mi vuole denunciare. Ma quale denuncia? Si accomodi comunque, si accomodi. Fa male solo a chi non sa ridere. E la Zanzara. La Zanzara. Sono come zanzare, queste ombre sulla strada. E ancora a casa, Emo. E cadono le ceneri. Oh, a proposito di Dell'Utri, nessuno si è ricordato di una sua performance recentissima a Report. Sentiamo. Se le cose, che cosa farà da qui fino alla fine dei suoi giorni? Vorrei fare un cacchio. Quello che vorrei fare, cioè, però da fare un cacchio bisogna essere sereni. Cosa vuole fare da qui alla fine dei suoi giorni? Non voglio fare un cacchio, vai, numero uno Marcellone. Basta, ma che stiamo ancora a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Si gonfiano i piccioni nelle risate del mio riso. Sì, ma mi brucia quel sorriso. Oh, ancora Dell'Utri, ancora Dell'Utri. Mi fa pensare a casa, ma brucia quel tuo sorriso. Mi sono rifiutato di parlare con i PM perché mi sono abbasso per poter rispondere. Non posso parlarne con lei. Però io come giornalista gliela devo fare. Lei come giornalista deve fare questo e altro. Però è importante che non rompa i coglioni a chi intervista. È numero uno Marcellone, dice: lei come giornalista può fare questo e altro, basta che non rompa i coglioni a chi intervista. Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. E beh, questo bisogna sempre ricordarla, questa qua. No, Parenzo, questo, ma perché mi va messo in onda? Perché bisogna sempre ricordarla, questa cosa, bisogna sempre ricordarla. Ma è estrapolato dal contesto. Ma non è, ma è come al solito, estrapolato dal contesto. Parla lui, dai, estrapolato dal contesto. Avete estrapolato dal contesto. Ma allora, signora Clotilde, che diavolo vuole da me? Vuole denunciare, signora Clotilde, perché ho ospitato il barone nero? Perché ho ospitato il barone nero? E dai. Potrei parlare con Parenzo? Oddio, ma se questo barone nero, se questo barone nero non è fuori legge, può esprimere la sua opinione con comunicati, interviste e tutto. Cosa vuole da me? Io infatti con lei non mi trovo. Non si trova, pazienza, purtroppo. Mi scusi, il fatto che lei esalta certi personaggi. Ma io non esalto nessuno. La qualifica, ma adesso Dell'Utri, non so, è grande, e parla di quell'altro, è grande. Tutti i delinquenti le piacciono. Sì, mi piacciono i delinquenti, qualche problema? E deve essere, si qualifica. Qualche problema? Se mi piacciono i delinquenti, ha problemi? No, per carità, allora. Sarà suo e da chi la circonda, non certo mio. Mi piacciono i delinquenti, allora mi affascinano i delinquenti, qual è il suo problema? No, è mio problema. Appunto, io non ho problemi. E allora? Ma mi fa parlare un attimo con... Ma Parenzo è qui, la sta ascoltando. Senta, un'altra cosa che mi ha urtato tanto è quando lei partecipa alle sue funzioni religiose. Sì. È questo qui che la sfotte, che non lo capisce. Lo so, è vero, questo è vero. No, a me fa piacere la sua solidarietà. È vero, questo è vero, ha ragione lei signora su questo, è vero, è vero. Veramente, guardi, poi dico, ma veramente siete amici? Beh, ma uno deve anche accettare queste cose, nell'amicizia, anche uno. Ma io, sì, io lo sfotto sull'ebraismo, lui mi sfotte su altre cose, su mie, come dire, sì, ma lei lo fa in caratteristiche, pubblico. Ma io lo faccio, ma anche lui lo fa in pubblico, non si preoccupi, anche lui. Ma non si può sfottere una persona perché ha Senta, io sfotto chi mi pare, ha capito? Io sfotto chi mi pare. Lei mi vuole insegnare la buona creanza? Mi vuole insegnare la buona educazione? Se non è riuscita sua madre a farlo. No, mia madre, guardi, lasci perdere mia madre, che mia madre ha fatto il suo mestiere in maniera proprio, guardi, impeccabile. Davanti a lei si faccia gli affari suoi, mia madre non c'entra niente, mia madre è stata perfetta, inattaccabile, non si preoccupi. E lei infatti, ma infatti oggi mica dico sua no, madre, se non c'è riuscita mia madre, è una critica a mia madre, lasci perdere mia madre. No, non è una critica a sua madre, no, una come critica no, mi sembrava. È una critica a lei. Vabbè, guardi. Ma quello lei l'ha già fatta, chi se ne frega delle critiche che lei fa a me. Vabbè, tanto. Adesso, ma lei vuole ancora denunciarmi o no? Sì, domani voglio informarmi, se è possibile. Una bella denuncia, guarda, mi piace questa denuncia per apologia di fascismo. No, perché è una cosa vergognosa, è sconvolgente. E lei davanti soprattutto a un suo collega che definisce amico, ebreo. Gli mette davanti quella persona che parla di Pribet e dell'ecologia nazista, ma se ne rende conto che ferite può riaprire? Me ne rendo conto benissimo. Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via. Così si presenta Giorgio Stracquadanio, ex deputato del PDL, poi uscito da Berlusconi, a una trasmissione sulla 7, l'area che tira. Dice, è arrivato in ritardo, dice, è colpa di Trenitalia, ma sentite la spiegazione, incredibile. Sono i treni che l'hanno fatto arrivare in ritardo? Sulla linea dell'alta velocità, dove corrono due concorrenti, Trenitalia e Italo, siccome la linea è di proprietà di Trenitalia con RFI, mettono treni più lenti, così rallentano il treno del concorrente. C'è il cartello fra Italo e Ferrovie dello Stato. No, al contrario. Ferrovie dello Stato fa andare un treno più avanti, più lento, di modo che Italo arriva per forza in ritardo e i clienti piano piano si disaffezionano. Le teorie di Giorgio Stracquadanio, cioè praticamente Trenitalia andrebbe più lento, in questo modo fa rallentare i treni di Italo e dunque la clientela di Italo si arrabbia e non va più su quei treni. Ma Giorgio, su, amico Stracquadanio, dai! Ma cosa fa adesso Giorgio? Ma non lo so, cerca di tornare giustamente sulla breccia, eccetera. Ma è con noi... Grande ritorno alla Zanzara, l'abbiamo trattato un po' male con l'ex marito una volta, però lei non se la prende mai, giustamente. Oh. Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? Va molto bene. Io sono va sempre... male per l'Italia, questa legge di stabilità va male. Io sto benissimo, devo dire la verità, a me che me frega, 14 euro in più, 14 euro in meno, che me frega. vabbè però. Anche a lei non è che cambia la vita con la legge di stabilità, No, a me cambia la vita, perché io ho un impegno con gli elettori, quindi devo assolutamente fare una battaglia, perché i nostri impegni che abbiamo preso in campagna elettorale vengono mantenuti. Però a far cadere questo governo non ci riuscite, come mai? Ma noi adesso cerchiamo di migliorarlo in Parlamento. Ah, di migliorare la legge, dice lei. E se non si migliora, io il mio voto certamente non lo darò. Ma lo sai che Parenzo, che questo è una cosa gravissima, devo dire, hanno ricevuto solidarietà da un deputato del Partito Democratico, signor Carbone, Ernesto Carbone, Daniela Santanchè e Alessandro Sallusti, sono stati insultati sotto casa da un gruppo di ragazzini. E poi la cosa incredibile è un gruppo di ragazzi, ma come mai? Lei si è dato una spiegazione, onorevole Santanchè? Ma non c'entra la politica, non dai, credo che c'entri la politica, no? Ma girano cori sportivi, infatti Parenzo zecca sempre tutto, parlavano delle squadre di calcio, effettivamente la politica non c'entra. No, ma c'entra sul serio, perché erano ragazzini. Ragazzini, io li ho visti, erano una cinquantina e ho sentito soprattutto quello che dicevano. Che dicevano? Lo dico anche da madre. Cioè, se noi continuiamo a replicare tutto quello che succede, diamo un pessimo esempio e soprattutto non costruiamo un paese migliore. Ma che le hanno detto in particolare? Perché sono talmente cose, cioè le solite cose, puttana, queste cose qui. Certo, Berlusconi è morte, Sallusti, boia, sei stato salvato da Napolitano, se no marcivi in galera. Cioè erano anche preparati. Però mi sembravano molto preparati e anche se abbiamo trovato anche la polizia, ha trovato anche la chiave inglese nelle fioriere. Ma era tutto organizzato secondo lei? Cioè, io non lo so, non faccio l'investigatore, non sono la polizia, non sono la Digos, non sono niente di tutto questo. Però secondo lei... Dico semplicemente che degli atteggiamenti del genere comunque comunque non vanno derubricati. Ma sono ispirati da qualcuno secondo lei? In un paese dove in una casa privata si arrivano 40-50 ragazzi dopo mezzanotte fanno quello che hanno fatto e quindi questo ma è c'è una mente ispiratrice secondo lei? Sono stati ispirati da qualcosa, da qualcuno? A me non me ne frega niente. No, ma così per sapere se lei si è fatto un'idea. Io non lo so, io mi sono fatto un'idea che non erano dei cori sportivi, questa è l'idea, ce l'ho ben chiara e so quello che ho vissuto. Ma dei mandanti ci sono secondo lei di questa roba qui? Ma io non lo so, non lo so, no, vabbè. Mandanti questo non lo so. No, se è una, voglio dire, è una cosa sporadica così, magari c'è cioè di no, qualche... rispondevo a Parenzo che dice la politica non c'entra, ho risposto ma dicendo sì, dai, ho capito, ma sono state ma 4 sì, va bene, Parenzo, lei vuole vivere in un paese così. Beh, non è bello. Va di quella direzione. Beh, Davide, non è simpatico uno, sotto casa ci sono 50 persone che ti dicono, puttana, troia, quello è stato salvato napolitano e viene aggredito, dai, comunque non è simpatico. Non sto difendendo nessuno, ho detto che è chiaro che è una roba vergognosa. Agli amici tuoi di sinistra non succede. Agli amici tuoi di sinistra non succede. Ma amici, ma non è vero, a Vendola ogni tanto lo sbeffeggiano una cosa. Ma non è vero, mi hanno detto che non è mai capitato un episodio del genere. Poi lei si è ma anche a me ogni giorno, ogni tanto quando passo per strada. Ma non c'entra per strada, c'entra una cosa in una comunista che non è vero. Ma voglio dire, sia con i violenti sia con quelli che fanno questo. Parenzo sottovaluta tutto. Quando succedono queste cose di aggressioni fisiche, quando succedono le cose che non hanno a che fare con le dichiarazioni, con le prese di posizione, ma le aggressioni fisiche, uno deve dire che sono dei coglioni, degli infami e basta, punto. Non è che deve dire, non è una cosa politica. Ma è evidente che sono dei imbecilli. Cioè, ma no, tu dici, vabbè, succede che uno passa sotto strada e viene insultato. Ma non è che succede e giustifica perché succede, dico che sono quattro imbecilli, perché non si va sotto casa delle persone a fischiare, a minacciare. Meno male. Ma non c'è, ovvio, sto dicendo delle robe banali. Sì, però non è che puoi banalizzare, cioè sono delle cose che succedono a Danila Santanchè, Alessandro Saluzzi, non per caso, perché sono loro, perché non è che succedono a quelli dopo di sinistra. Dai, su, diciamo la verità, diciamola tutta. Di sinistra no, non succede. Non succede. Anche a quelli io lo dica lei, onorevole Santanchè, io lo dica lei. Ma cosa vuole che le dica? Ma cosa devo dire a Parenzo? Le devo fare dei disegni per fare capire. Le parole non bastano, gli faccio un disegno. Senta una cosa, qual era il patto di cui si parla che tra Napolitano e Berlusconi, cioè, c'era questo patto o no? Gli ho detto che il presidente Napolitano, il discorso alle Camere riunite, ha detto che accettava il secondo mandato perché lui era garante della pacificazione. Gli ho detto traditore perché ha tradito le aspettative sulla pacificazione. E cosa avrebbe dovuto fare? Cioè, qual era il patto? La grazia? Qual era la cosa? Era stata promessa esplicitamente la pacificazione, no, d'accordo, se lo ricorda, passa attraverso cosa però non è santa che è questa pacificazione, d'accordo, che non c'è, dice passa lei attraverso la pacificazione, non lo scontro. Ma qual era minuto dopo minuto cosa si aspettava Berlusconi da Napolitano, mettiamola così, che gli aveva promesso evidentemente, lei dice no, io non parlo di Berlusconi, parlo di Daniela Santanchè e come ha sentito con le proprie orecchie il discorso di insediamento del secondo mandato del presidente Napolitano, la pacificazione. E perché è stato tradito? Perché lei oggi dice... questa pacificazione non c'è stata, non c'è. C'è uno scontro perpetuo e continuo, ai danni soprattutto di uno, che è perseguito da un punto di vista giudiziario, da un punto di vista politico. E Napolitano che c'entra? Oggi voglio dire il rinvio a giudizio di presidente Berlusconi sulla questione di De Gregorio. Essere come? Voglio dire, come lo giudica De Gregorio? Io ho fatto una dichiarazione, ci ho detto che la magistratura di Napoli si iscrive al club della pacificazione. Ma De Gregorio come lo giudica lei? Certe procure sono come Santoro, che accreditano personaggi che non dovrebbero essere accreditati. Come lo giudica De Gregorio lei? Ma io non so come giudicarlo, perché aveva dei problemi suoi e che quindi oggi lo sport nazionale economici accusare Berlusconi e quindi per accusare tutti ormai accusano Berlusconi per salvare se stessi da atti o da comportamenti che non hanno niente a che vedere con Berlusconi. Ma voleva dei soldi da Berlusconi, c'è stato un mancato accordo. Ma no, credo che questo tipo qua avesse degli altri problemi e quindi ha tirato in ballo. Che problemi? Però io di fatto oggi vedo che è stata cambiata la Costituzione, perché noi parlamentari non abbiamo vincolo di mandato, oggi apprendo che la Costituzione è stata cambiata, sì, abbiamo vincoli di mandato. Vabbè, è un discorso lungo. Lui dice di aver preso dei soldi, dice di aver preso dei soldi, e vabbè, su quello si deciderà. Beh, i soldi li ha presi e sono nel bilancio. Sì, lui dei soldi in nero dice di aver preso. Comunque adesso non ci addentriamo in questa cosa. Ma sa, si può ormai in questo paese dire qualsiasi cosa. Senta una cosa, ma sono accreditati a dire qualsiasi panzana. Senta, ma Napolitano si è scagliato contro il Fatto Quotidiano parlando di panzane anche a proposito di alcune sue affermazioni. Ma da questo punto di vista, lei che ha combattuto anche in televisione con Travaglio recentemente, è più trasparente di Napolitano da un certo punto di vista, Travaglio, il Fatto? Ma io guardi, adesso le devo dire. Cioè, ha ragione il Fatto? No, io so che il Fatto ha fatto, voglio dire, ha sempre criticato il presidente Napolitano perché stava dalla parte della procura di Palermo. Sì. Io poi sa, sono per la libertà di stampa e quindi voglio dire, il Fatto fa quello che è il suo mestiere. Ah, il Fatto fa il suo mestiere. È un giornale. Però da un certo punto di vista, questo le voglio chiedere, cioè è più trasparente il Fatto rispetto a Napolitano? Se ci sono due grandi... Ma io non ne faccio una questione di trasparenza, io ne faccio una questione di ruoli. Per me il Presidente della Repubblica deve essere un arbitro e non un giocatore. Sì. Se vuole fare il giocatore e poi deve anche accettare le cose. Ma è la posizione del Fatto? Perché eh? Quando uno fa... quattro senatori a vita del centro-sinistra e io dico come nel centro-destra, di area di centro-destra non c'era nessuno meritevole per fare senatore a vita. Dunque, questo vuol dire essere giocatore nella diatriba tra il Fatto e Napolitano. Io vorrei che il Presidente della Repubblica fosse terzo. D'accordo. Vorrei che facesse parte di una ma squadra. È esattamente la critica che gli fa da più di un anno ma a questa me, parte guardi, il Fatto Quotidiano. Ma io la critica la faccio da molto tempo, io sono come i paracarri, non cambio idea. E continuo a fare quelle che sono cioè su, su Napolitano su Napolitano lei la pensa come Travaglio, non è un dramma, non è una ma cosa, forse magari Travaglio la pensa come me. Però è vera questa cosa qua, lei la pensa come Travaglio su Napolitano, ma no, guardi, non è uno scambio, saremo uguali, voglio dire, sa, noi umani abbiamo tanti lati che possono essere diversi, cosa comune. Allora abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24. Dai, ma Parenzo, Topolino, Parenzo, siamo seri. Guarda che non vorrei ingoiarla di un sol boccone. La Zanzara. Vado a stare svegli per amare, vado a stare svegli per soffrire, ma che fastidio. Siamo qui con Daniela Santanchè. In forma, Parenzo, dove sei? In treno? Dove sei? Come al solito, in treno? Sono salito, non comunico la direzione di marcia perché non vorrei trovare qualche nipotino di Pripke in giro. Ma dado, no, guarda. Nipotini di Pripke, adesso non esagerare, dai, non esagerare. Qualche nipotino di lei e di von Trooper, lei sì. Von Maller, come si chiama lei? Von Fruster, Van Fruster, come si chiama? Il barone Van Fruster. Senti, io però io voglio sapere una cosa che solo l'onorevole Santanchè può sapere. Ma è vero o no? Lui chiami l'onorevole Santanchè, bello, l'onorevole. No, posso chiamarlo anche Daniela, così diamo un minimo di forma. No, ma è divertente l'onorevole. Ma perché? Che c'è? Allora, voglio chiedere una cosa, ma è vero o no che Alfano ha ripetutamente chiesto la testa del direttore del giornale? Questo però me lo deve dire. Ma questi gossip. Ma non è gossip, è politica, è politica. Ma che politica? Come no, è politica, non è. Ma si figuri, ma come non no? Credo assolutamente. Come non ci l'ha detto lui? Ma l'ha detto lui. Ma l'ha detto lui più volte, l'ha detto lui. Glielo chieda stasera, è così? No, ma guardi, io proprio non ci credo. Non lei voglio non ci proprio crede. Neanche pensarci. Non ci crede, vabbè. No, assolutamente. Non, non ha mai chiesto la testa di Sallusti a Berlusconi. Non mi risulta. Non le risulta, vabbè. No, ma se lei lo non dice, mi risulta. Ci sarà. Non ci mi sarà. Risulta. Allora però si mette d'accordo. Poi però. Tutte le persone vedo soltanto il lato migliore, per cui per me sono tutti fantastici. Anche Alfano è fantastico. Io di tutti, anche di Parenzo, si figuri. Quando uno dice ma com'è, è fantastico, ma com'è fantastico Parenzo? E io mi concentro solo sulla parte migliore di Parenzo. Non ho ancora capito qual è, ma ce l'avrà anche lui. Senta, però il suo amico Briatore ha detto che se Berlusconi non si candida, lui vota Renzi. Lo capisce quando dice queste cose, Briatore? Ma guarda, io so una certezza, che gli elettori sono con Silvio Berlusconi, per Silvio Berlusconi. Berlusconi, d'accordo, vabbè. I voti li prende Silvio Berlusconi. Però Briatore ha detto: se lui non si presenta, io voto per Renzi. Lei lo può capire, Briatore, che è un berlusconiano. Cioè, se non si presenta Berlusconi, uno può essere tentato. Sì, ma l'ha detto anche come gesto, voglio dire, di amore assoluto. No? Vabbè, ma l'ha detto, però. Dire, se c'è Berlusconi, è Berlusconi. Però se quello ha detto. Ma guarda che se non c'è Berlusconi è un'altra storia. Ho capito, però lui dice, non è che ha detto voto Alfano se non c'è Berlusconi. Voi non siete un po' liberali, ma lasciamo che ognuno sì, dica quello ma infatti... che vuole, quello che... Già a me mi censurano tutti i giorni. Lei, per io esempio... voglio dire, si figuri se voglio censurare altri. No, io ma lei... per la libertà. D'accordo, lei per esempio... Anzi, tra... mi manca un po' l'aria in questo paese, perché ultimamente... Vabbè, non esageriamo. Libertà. Ma lei può dire, quello che vuole, può dire quello che vuole in qualsiasi momento, si figuri se non c'è libertà. Ma tra Renzi e Alfano, lei chi voterebbe? Così, onorevole Santacchè, tra Renzi e Alfano lei chi voterebbe? Mi dica la verità. Ma secondo lei io posso votare Renzi che è di sinistra? Ma mai nella vita. Beh, Renzi di sinistra è una parola grossa, eh. Comunque tra Renzi e Alfano lei... insomma, non è del nostro movimento politico. Tra Renzi e Alfano lei voterebbe Alfano? Il mio avversario è Renzi. Alfano non è un avversario. Ma in un confronto voterei Alfano. Oh, è come io questo. Ma sa... questo è senza ombra di può venire qualche dubbio però, eh. Può venire qualche no, dubbio. No, guardi, non venga perché con me vabbè. Io sono sempre molto chiaro. Avversari Renzi non è Alfano il mio avversario. Benissimo, il suo avversario Renzi non è Alfano, ma questo fa anche certo. Chiarezza rispetto ad altre cose. Guardi, non è una domanda stupida. Ma io salgo a tanti difetti a farlo come mangio. Senta, lei invece capisce Maradona che fa il gesto dell'ombrella Equitalia? Perché è una cosa molto popolare, cioè da un certo punto di vista è comprensibile Maradona che dice ti è Equitalia perché la cartella esattoriale passa da 6 milioni. Insomma, che lo vada a fare sul servizio pubblico, non quella di Santoro, ma servizio pubblico per la Rai, mi sembra un gesto molto deplorevole. Deplorevole sul servizio pubblico, ma il gesto lo capisce lei, il gesto di fare TIA Equitalia? No, di Maradona no, perché ha guadagnato miliardi e non è la stregua di tanti nostri piccoli imprenditori che non possono pagare perché devono decidere se pagare lo Stato, pagare i dipendenti e dar da mangiare ai figli. Maradona non è in questa... Non è in questa condizione. In questa, no, e quindi Maradona non è assolutamente... Un'altra cosa, prima di lasciarla, riguarda l'ex moglie di Berlusconi che ha fatto ricorso, a me pare incredibile, poi ognuno può difendere i suoi interessi ovviamente come vuole, però non si accontenta di 1,4 milioni di euro al mese, 46.000 al giorno, ma fa ricorso. Non le pare una cosa assurda? Ma lo sa, una cosa così lontana da me, perché io preferirei pagare io gli uomini anziché essere pagata, perché per cui è proprio una questione mentale che non riesco a comprenderla, perché io trovo che le donne devono... lavorare, devono diventare, voglio dire, permettersi il lusso come fanno gli uomini, di pagare gli alimenti. Cioè dovrebbe andare a lavorare, dice lei? No, pagare gli alimenti. No, dovrebbe mettersi a lavorare la signora Lario? No, non lo diceva lei, sono sempre chiara, non faccia la zanzarina o furbettina. No, ma infatti le ho detto un concetto molto diverso. Ho detto che come donna preferisco pagare gli alimenti a un uomo piuttosto che un uomo pagare. D'accordo, ma nel caso specifico, il fatto che quindi uno faccia... è proprio un concetto assolutamente opposto. D'accordo, certo. Il fatto che uno faccia ricorso perché... Che la parità inizia nella culla, se noi donne cominciassimo questa roba qua sarebbe un bel percorso. D'accordo. Abituarci che gli uomini non sono dei bancomat. Ecco, appunto. Che gli uomini è un concetto che io non ce l'ho dell'uomo bancomat e vorrei che le donne non ce l'avessero. Dunque lei ha un concetto diverso da quello di Veronica Lario da questo punto di vista, mi pare chiaro. Cioè... Insomma, mi sembra molto chiaro. Per cui una ripeto, che... voi maschietti per me non siete dei bancomat e deve essere un orgoglio delle donne che non lo siano. Poi capisco che quando si fanno dei figli bisogna che gli uomini partecipano, i padri, in questo caso madri, i figli... Però nella stessa maniera, ecco, il concetto. Ma 46.000 euro al giorno, 46.000 euro al giorno, chiedere, opporsi a 46.000 euro al giorno non è un'offerta. Ma una roba che in questo momento, capisce, nel paese, appunto, stiamo parlando di cose che io non riesco neanche a comprendere. Ma non è un'offesa chiedersi, opporsi a una cosa di 46.000 euro? Ma io guardi, voglio sempre parlare di principi e non di persone. Beh, di perché principi, siccome il gossip lo subisco, ma non è il gossip. Glielo già spiegato, no, ma nel senso che non mi interessa, gli ho già detto quello che penso. Sì, vabbè. È una cosa per me fuori dal mondo, che gli uomini non sono dei bancomat. Va bene, d'accordo, ho capito. E quindi voglio dire. Senta, ma lei dopo quello che è successo con la Bonef da Santoro, tornerà da Santoro? Oppure le fa talmente schifo quello che è successo che non ci andrà mai più? No, io da Santoro ci torno sempre. Ah, sempre? Nonostante il fatto che lei pensi tutto il male possibile, il fatto che lei. Anzi, mi sarebbe molto piaciuto esserci in quella puntata. Cosa avrebbe detto la signora Bonef? Ne avrei dette. Che brutto, abbiamo fatto una dichiarazione dove ho detto che Santoro doveva essere perseguito per sfruttamento della prostituzione. Vabbè, quello Santoro, ma la signora Bonef che cosa avrebbe detto? Ma guarda, io dico che combatto per le donne, perché noi donne siamo la forza trainante di questo paese. Quando vedo donne che sono abituate a tutto per ottenere delle cose, cioè mi fanno una tale tristezza, una tale pena vedere una donna che si riduce così, che è stata, cioè, come dire, non c'è più niente, vuole tornare alla ribalta e che è disposta a raccontare balle, a dire delle cose così gravi. Provo tristezza da donna, perché sono abituata che le donne dobbiamo fare le battaglie sul campo. Però scusa, allora è stata che la per esempio scrivono che poi lei capisce, si voleva far vedere che era tutto falso, perfino Dudu, che era un topo travestito da cane, era talmente tanto grosse tutte le cose che ha detto, che ha detto, che mi fanno indignare da donna, perché vorrei che donne così non esistessero, addirittura vorrei che non ci fossero. Ma sono lontane da me anni luce, non le vedo, non le voglio vedere. Come mai lei non è stata fatta vicepresidente della Camera e la Bindi presidente della commissione antimafia? Perché capisce che siccome siamo in un governo che ormai è monocolore e quindi io sono divisiva, la Bindi invece è molto unitaria, ma non è un problema il mio. Non è un mio problema. Quello del governo, dice lei. Cioè, è del governo, dice il problema. Ma il problema è che c'è il monocolore, dice lei. Comunque, guarda, le voglio citare. Voglio dire. Ma Fini, ha letto l'intervista di Fini al coso? Adesso vado da un argomento all'altro. Cazzullo, così. Corriere. L'intervista di Fini, in cui sulla Santanchè dice: vada a rivedersi le cose orribili che la signora Pitonessa diceva di Berlusconi quando faceva la candidata premier di Storace. Io non ho mai usato la sua vita privata contro di lui. Poi scrive che si muove nel disperato tentativo di farsi notare. Ma cosa fa? Io senta, guarda, lei ha il difetto che hanno molto spesso gli uomini. Quali sono? Che o voi parlate del passato o vi proiettate nel futuro. Io voglio parlare del presente. Vabbè, ho capito, ma quindi non posso parlare di Fini, non c'è. Non c'è, non questo c'è nel presente, è consegnato al passato ed è stato bollato come traditore. Godetevi il presente. Ci godiamo il presente. Ci godiamo perché presente. Vi parlate sempre del passato. C'è del un fantasma, Fini. Ma oggi non lo apprezzate. Fini è un fantasma. È un fantasma, non esiste secondo lei. No, è il passato. È il passato. Senta, ma allora vogliamo smentire una volta per tutte questa cosa che ci ha detto il suo ex marito? Ci vogliamo smentire? Vogliamo smentire una volta per tutte la cosa che ha detto il suo ex marito sulla barzelletta, le cose? Smentiamo una volta per tutte. Ma no, ma io guardi, le voglio così bene il mio ex marito. Voglio dire, pensi che bello, dopo così tanti anni parla ancora della Santanchè. Siamo separati credo da 20 anni e parla ancora di me, motivo di orgoglio. È motivo di orgoglio, lasciamolo nei suoi bei ricordi. Guarda che bello quando una donna non sta più con un uomo e questo uomo parla ancora di lei e si ricorda di lei. Vuol dire che ha lasciato un segno che è incancellabile. Però solo lui ne parla, lei non ne parla mai. Io vivo il presente, non vivo di ricordi. Ma è vera sta cosa della pitonessa? Vivo il presente. No. È vera sta cosa della pitonessa? Ma voglio dire, è vero, è falso. Ma io cosa mi metto a giudicare? Una persona che ho sposato a 20 anni, che mi sembrava il mio principe azzurro, ma che dica tutto quello che vuole. Mi ha fatto vivere degli anni meravigliosi, non sputo del piatto dove mangio, sono contenta che continui a parlare di me, vuol dire che è un ricordo che non si cancella. Ma lui invece è un po' sputa di più bello. No, ma lui invece sputa un po' nel piatto dove ha mangiato oppure no? Vabbè, io non sono abituata, non sputo mai nel piatto dove mangio. Senta, ma un'ultima cosa, ma il signor Marrazzo che torna in televisione, le fa impressione o no? No. No, non gliene frega niente. Cosa vuole che me ne frega niente di Non gliene frega niente, c'ha altri problemi. Mi frega di tante altre cose, ma onestamente di Marrazzo. Vabbè, che questo lo posso capire, lo posso capire. Vabbè, grazie. Ma la vi posso sottotono, Parenzo? No, Parenzo è collegato col treno, lei è stata in ritardo. Parenzo un po' distratto. No, Parenzo è... Non la vedo, com'è, se l'è presa male per qualcosa, ha avuto qualche... No, anzi, io... È in treno, lui vuole sapere se Berlusconi è sotto ricatto o no, perché non riesce a fare quello che vuole, cioè far cadere il governo, è sotto ricatto oppure no? Non vuole sapere. Guardate, non fate solo un errore, mi chiedo di non fare, di sottovalutare Berlusconi. Ma chi lo sottovaluta, infatti? No, non lo dico a lei Cruciani, lo dico a Parenzo. Ma è sotto ricatto oppure no? È sotto ricatto o no? Ma che è sotto ricatto? Non è sotto ricatto. Sotto ricatto è il paese. Vabbè, ma quello è un altro discorso. È il paese. Ma come un altro discorso? Ma sì, vabbè. Gli italiani o no? Ma sì, più o meno. A me mi interessa di me stesso, me ne frego degli altri. Vabbè. No, dai Cruciani, non dica così. Non è così qualunquista lei. A presto. Vabbè, un bacio a Parenzo, se riesce a arrivargli alla guancia. Sì, sì, un bacino. Pubblicità. Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro. La Zanzara. Cucù, scusate se vi ho disturbato. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. È ancora a casa. Baila col ritmo bueno, non le importa. Prima gaffa di Rosi Bindi come presidente della commissione antimafia, che andrebbe chiusa la commissione antimafia, inutile, questo lo ribadisco sempre. La commissione deve combattere la lotta alla mafia. E penso che questa commissione debba incominciare a lavorare, abbiamo già perso molti mesi nei veti incrociati. Ci dovremmo unire per gli scopi e le finalità della commissione, che sono quelli di fare la lotta, di combattere la lotta alla mafia, a tutte le mafie, e quella di stare combattere vicino. La lotta alla mafia. Ho lasciato perdere, ora se i bambini sono collegati, caro Parenzo, bisogna che si mettano i tappi alle orecchie o che i genitori mettano i tappi, che li portino via, li chiudano, come dici tu, no? Li chiudano dentro una stanza, ma ci sei o no? No, ma che è una stanza? Che li leghino, ci sono in macchina che prendono il passeggino del bambino con una corda elastica, la leghino al tubo di scappamento e mettono la quarta e via. Aldo Busi a Reputation, ospite di Andrea Scanzi qualche giorno fa, una settimana fa in realtà, Sentite. Adulto è chi? Non vedo nulla di scandaloso se un ragazzino masturba una persona adulta, e questa è una frase abbastanza forte. Hai detto anche altro. Io ribadisco tutti i concetti, tutto quello che hai parola detto per puntata. Parola, anche perché per me una persona adulta, parlo di uomini, sono persone che hanno raggiunto l'età dello sviluppo e quindi eiaculano, possono avere 12, 13, 14 anni. Dai, su! Aldo, dai! Ancora, una carezza a un 17enne? È vero che i bambini sono minori, ma è anche vero che non tutti i minori sono bambini. Io sono profondamente scandalizzato e veramente irretito e arrabbiatissimo, incazzato nero, perché anche all'interno dei processi, anche all'interno della società civile, si continua a considerare la cosiddetta gravissima, imperdonabile molestia sessuale alla bambina di 7 con l'approccio anche sessuale, una carezza ok, verso quella di 17. È veramente iniquo, disumano. Ho capito, però, caro Busi, un limite bisogna metterlo, no? Sarà, certo che è diverso, però un limite bisogna metterlo, perché altrimenti dove lo vogliamo mettere il limite? Lo vogliamo abbassare? Uno può anche abbassarlo, però un limite ci vuole, no? O no? Poi parla di masturbazioni collettive, sentite, Reputation è la 3. Io intanto mi riferisco, purtroppo, e questo lo dico anche ai nebaci, a cose che non sono nemmeno considerate sessuali, ma sono le cosiddette masturbazioni collettive. Ma che erano iniziazioni. Quindi noi ci ritroviamo sul ponte del Chiesa, allora ti parlo degli anni fine 50, primi 60. Qualcuno aveva le mutande, tanti non avevano ancora le mutande, perché stiamo parlando ancora di paesini in una situazione post bellica. Quindi era normale che il centro di interesse fosse il pene. Ma per tutti, lo è stato per tutti, nelle campagne, sui fiumi, su una cosa. Era una cosa normale, per cui era tale l'orgoglio di vederlo ergersi, che in un gruppo, se tu non glielo prendevi in mano, a quello un po' più grande di te, prendevi pure uno scappellotto. Beh, però insomma, non è che proprio accadeva sempre così dappertutto, insomma, no? Cioè, non era proprio una cosa comune, adesso non esageriamo, caro Busi, o no? Davide? Vabbè, non si sente un cazzo, dai, Gennaro da Caserta, dai, Gennaro. Sì, buonasera Giuseppe. Dica. sente un ritorno però, eh. Che devo fare? Su, andiamo avanti, dai Gennaro, forza. No, niente, io volevo dire che a parte che questi qua, come pure lei, diciamo un po' che dei sciacalli dei mass media, no? Sì. Perché usate i media soltanto per provocare l'uditorio. Vabbè. Non per fare Gennaro, ad aggiungere qualcosa oppure la posso mandare a quel paese subito? No, me lo dica no, lei. No, no, perché lei solo così può fare. Sì, ma non lo so, esattamente... siamo sciacalli perché mediatici. Va bene, siamo sciacalli, va bene. Sì, perché non è così. Le voglio parlare un barone nero. Sì, le voglio ricordare, le voglio ricordare che questa trasmissione non si chiama qui Radio Maria, non si chiama chiamate Nostro Signore oppure pregate con noi, oppure ma non si chiama. Ma non si rende conto dell'indignazione che ci sta in giro. Ma non me ne frega niente dell'indignazione. Scusi un attimo. Nei confronti sì. Quella, Gennaro, di tutto il popolo. Sì, i media producono rabbia. Caro amico mio, lei, questa trasmissione si chiama La Zanzara. Dunque, non rompa i coglioni e passi altrove. Giuseppe, lei non mi chiami amico perché io e lei non abbiamo niente da vabbè, partirci. Amico in senso lato, insomma, in senso... Io le posso solo dire una cosa, sì. Che lei è un grande provocatore e lei ha a disposizione un microfono che è un network nazionale. Bene, non lei, so invece non ce, lei invece non ce l'ha a disposizione, se ne faccia una ragione e non ci rompa i coglioni. Giuseppe da Pescara, buonasera. Oh, Giuseppe, buonasera. Sì. Senti Giuseppe, ma la Sant'Anchè, la pitonessa è ancora lì o... No, è andata via, salutati. Dica, è andata via. Mi siete salutati, purtroppo, va bene. Va no, bene, volevo, allora... solo dire che prima ascoltavo la pitonessa che si lamentava del fatto che un gruppo di ragazzi è andato sotto casa, sì, allora... di Zio Past a insultarlo, eccetera. Ma volevo dire alla pitonessa... Un attimo. Chi è? Pronto? Senatore Monti? Sì. Presidente, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Aveva un appuntamento con noi telefonico Monti? A quest'ora? Beh, certo, senatore Monti. No, volevamo chiarire questa storia di Empi, no? È arrivata anche in Europa con un'interrogazione da parte di Silvestris. Ma che fine ha fatto questo cane? Lei ha presentato un quadro molto periglioso. Ma come quadro la stabilità del governo Letta non è minacciata proprio da Empi, no, ma sì. Bensì dal PD, che comprensibilmente non critico, in una fase così turbolenta, sì. Pre-congressuale, è un'obiettiva variabile molto perturbata. No, ma scusi, d'accordo. In Italia. Ma che c'entra adesso questo? Le stiamo chiedendo dove è finito questo cane? L'ha scaricato, l'ha abbandonato? Empi, il cane, no? Il PD, il PDL. Scaricato. Forse l'Italia è minacciata dal PDL. Ancora, vabbè. Che fa i suoi diktat quotidiani. Certe volte il governo si scrive Letta, ma si legge Brunetta. Ma questa l'ho già sentita, Presidente Monti, scusi, però abbia pazienza, io non voglio essere insistente, non vogliamo essere insistenti, io e Parenzo, però in questo momento la politica adesso ci interessa poco, ci eravamo messi d'accordo con la sua segreteria, perché ci interessava la questione del cane Empi, il cane Empi. Empi, guardi, non sono né Falco, sì. Né Colomba, né questo. Ovviamente pitonessa e tantomeno grillo, ma se vuole parlare, che parliamo di cani, ce ne sono molti anche in Parlamento, chieda a Casini, a Mauro. Ma come Casini, Mauro, cani addirittura? Presidente Monti, ma gli dà da mangiare? Insomma, torniamo a Empi, gli dà da mangiare o no? A Casini. Ma no, ma che c'entra Casini? Empi, il cane! Sono i miei nipoti che gli danno tanti bei bocconi. Non so se ha capito il mio grande senso dell'umorismo. No, ho capito, la sì, mia riferimento, grande però, vena ironica. Non fa ridere molto, sì. Ecco, quelli che restano in Scelta Civica apprezzano molto il mio umorismo. Vabbè, senta, siccome lei non vuole rispondere, adesso le faccio davvero un'ultima domanda. Ma è vero che ce l'hanno i suoi nipoti, ce l'ha sua sorella? Chi ce l'ha questo cane? Poi davvero devo chiudere poi, Presidente, su. Come ho ancorato l'Italia alla piattaforma dell'Europa. Ma che c'entra? Così ho dato una nuova casa a Empi. E dove? I think it's deeply possible to reconcile democracy and integration. Oddio. Ah, scusate, mi faccio spesso prendere dalla grande passione per l'integrazione europea e dimentico il resto. Lo so, il cane? Che cane? Vabbè, presidente, arrivederci, grazie, grazie. Non mi moleste moschito. Non mi moleste moschito. Niente da fare, dai. Elia da Torino, buonasera, 800 24 00 24. Niente da fare, Monti, ci eravamo messi d'accordo per parlare col presidente Monti di Empi. Non ci siamo riusciti, l'integrazione europea, Letta, il PD, il PDL. Elia, Torino. Buonasera, dica. Signor Cusani. Niente, innanzitutto volevo dire che Maradona, a differenza di molta altra gente, è stato coerente, perché qualche anno fa è stato capace di dire in una conferenza stampa in diretta che me la ciupan e che me la sigan ciupando, per cui, cioè, vuol dire fare il gesto dell'ombrello a Equitalia, insomma, sono caramelle, ecco, tutto qua. E in tal proposito mi piacerebbe sapere cosa ne pensa l'onorevole Fassina. Ma di che cosa, scusi? Allora, di che cosa, scusi, Fassina, Elia, di cosa? Ha detto che quello è un gesto da miserabile, allora? Perfetto, d'accordo, ok, allora, allora mi piacerebbe sapere cosa ne pensa il signor Fassina. Ma di cosa? Se mi lascia finire, ma lei ha detto prima, voglio sapere che ne pensa, sarei curioso di sapere che ne pensa, allora, Fassina. Uno, Maradona è coerente col suo essere, col suo personaggio. Vabbè, Marco da Roma, okay. Dai, Marco da Roma. Buonasera, Cruciani. Uno buonasera. Parla da fiato alle... mi sto addormentando. Marco. Mezz'ora che aspetto. Allora, no, ho sentito la faccenda di Silvestri. Giusto il cognome del parlamentare? Sì, che... Silvestri. Allora, ma lei ci fa addormentare, però a noi ci fa addormentare, cioè, Marco. Che si fuma questo qua? Perché? Per presentare... Cioè, noi paghiamo uno... Sì. Per andare al Parlamento Europeo a chiedere che fine ha fatto il cagnolino. Che vuole fare? Ha presentato questa interrogazione. E poi con tante cose inutili ha detto facciamo un'altra cosa inutile. Carlo, sì. Provincia di Milano, Carlo, provincia di Milano. Buonasera, mi sente? Sì, la sento, dica. Ecco, buonasera, senta, mi dispiace dei convenevoli. Sì. Le volevo dire una cosa. Io sento la vostra trasmissione saltuariamente quando torno al lavoro. Sì. E mi ricorda un po' la trasmissione di Alto Gradimento del grande, sì, Arbore e Bon Compagno, sono piuttosto vecchie, per cui erano allora di moda. C'è però una profonda differenza. Sì, non c'è dubbio che ci sia differenza, solo lei può vedere. Comunque, vabbè, allora? E allora, la differenza era che quelli erano intelligenti. Voi sì, siamo noi siamo degli imbecilli, ci siamo patetici. No, siete patetici. Benissimo. Perché sfruttate la gente, basta. Sfruttiamo la gente, punta, sì, di maleducazione. Sì. Per cui tutto quello che volevo dire glielo ho detto. Siamo maleducati, questo vuole dire lei. Siamo maleducati. E perché lei è stato 20... Ma perché... anche prima con quella povera signora... Perché lei è stato 20 minuti ad aspettare al telefono, a chiamare, eccetera, per dire una cosa di questo tipo? Perché lei è attratto da questa roba, è attratto, è attratto. Di dire le proprie cose. E infatti glielo facciamo dire. Patetici. Patetici. Buonasera, signore. L'abbraccio fortissimo. David, ci sentiamo domani 18:30, Guardi, Cruciani, io ho telefonato per dirle, io la voglio vivo, la voglio con le parolacce, la voglio piena di contraddizioni, mandi a fanculo, dica le parolacce, perché è nel contrasto che c'è la vita, se no è come tutte le altre trasmissioni. E allora che facciamo? Radio 24, la passione, si sente.